Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, era Deborah Rosciani che vi terrà compagnia in quest'ultimo quarto d'ora, che ci accompagnerà poi verso il giornale radio delle 13, dove naturalmente ritorneremo ampiamente sulla relazione del presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, conclusione, come avete sentito poco fa, dell'assemblea annuale degli industriali italiani. Per la verità poi l'ultima parte è stata dedicata all'intervento del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Noi monitoriamo quello che sta accadendo sui mercati finanziari questa mattina, più volte citati anche dall'intervento di Emma Marcegaglia, che ha ricordato anche con forte preoccupazione quanto accaduto nelle scorse settimane sui mercati, ricordando come l'euro abbia rischiato di essere messo in scacco appunto dagli investitori internazionali. Ha ricordato la Marcegaglia l'accordo europeo del 9 maggio sopraggiunto all'ultimo momento, ha detto, prima che il baratro si aprisse sotto i nostri piedi, e naturalmente senza le riforme che devono arrivare dall'Italia così come da tutti gli altri paesi europei anche l'euro resterà a rischio, ha ricordato, e sarà poi l'impresa con i suoi lavoratori a pagare il conto più salato. Con la crisi degli ultimi mesi, io ricordo ancora i passaggi dell'intervento di Emma Marcegaglia riferiti soprattutto ai mercati finanziari, un nuovo terribile capitolo si è aperto, appunto sono minacciati l'euro, la tenuta stessa dell'Unione Europea, e ha proprio fatto un esplicito riferimento Emma Marcegaglia alla preoccupante mancanza di leadership di governo dell'Eurozona. E poi il passaggio invece sulle agenzie di rating lo ha ricordato Sebastiano Barisoni, specializzate ormai solo nell'eseguire autopsie, ma non sono più in grado appunto di fornire delle considerazioni o delle analisi preventive rispetto allo stato di salute delle società quotate, così come appunto dei debiti pubblici. Noi adesso andiamo un po' a vedere quello che sta accadendo questa mattina sul mercato, visto che per fortuna abbiamo quantomeno una giornata piuttosto positiva, che era partita in maniera più sottotono rispetto a come non stiano andando adesso le cose. In Europa le crescite degli indici sono tutte superiori ai 2 punti percentuali, e per la verità si mette in evidenza Piazza Affari con un rialzo del 2,7% sulle FTSE MIB, mentre questo euro, ripeto, più volte citato questa mattina da Emma Marcegaglia, che nei giorni scorsi è scivolato ai minimi da 4 anni sulla soglia di 1,21, tenta di mantenere questo poco recupero, per la verità messo a segno negli ultimi giorni, 1,2295 rapporto di cambio in questo momento. Stamattina per la verità c'è stato anche un balzo oltre la soglia di 1,23, poi adesso si ritorna un po' indietro, ma complessivamente il mercato azionario che sta andando molto bene. Qualche altro minuto di tempo dedicato all'analisi di oggi, mi faccio aiutare dal collega dell'Agenzia del Sole 24 Ore Radio Cor, Paolo Paronetto. Paolo, buongiorno e grazie di essere con noi questa mattina. Buongiorno a tutti. E allora, la crisi greca ha ferito la credibilità dell'euro, lo sappiamo bene, mettendo in luce in realtà una situazione di disagio più profonda in tutta Europa. La Grecia, ha detto la Marcegaglia, è la punta dell'iceberg, questa Grecia che ha veramente rimandato sull'otto volante nelle ultime settimane i mercati finanziari. Intanto ti chiedo un po' qual è l'analisi rispetto a questa mattinata, come mai questo balzo? Perché tra l'altro l'Europa è reduce già da una buona giornata, Wall Street è andata male e oggi l'Europa si disinteressa totalmente di quello che è accaduto ieri sul mercato americano. Come mai oggi riesce ad andare per conto suo, Paolo? Sì, l'Europa stamattina sta confermando il trend positivo già messo a segno ieri, che quindi permette di recuperare le perdite che erano state invece accusate martedì a sostenere i listini del vecchio continente. Sono stati in avvio già i guadagni messi a segno ad esempio dalle borse asiatiche, quindi soprattutto da Tokyo, ma come ricordavi tu i mercati hanno allungato il passo proprio nell'ultimo periodo della mattinata, in quest'ultima fase, e avevano beneficiato dei listini, in particolare delle rassicurazioni che sono arrivate dalla Cina per quanto riguarda il proprio portafoglio di titoli in euro. Infatti in mattinata il Financial Times aveva riportato alcune indiscrezioni secondo cui il governo di Pechino si starebbe interrogando sul futuro del proprio portafoglio di titoli in euro, che è molto cospicuo proprio dopo il calo della moneta unica. Sono arrivate però secche smentite da Pechino, l'articolo è stato definito totalmente infondato, e quindi questo ha rassicurato l'umore timore di tutti gli investitori che sono tornati agli acquisti, confermando quindi i recuperi. No, interessante questa posizione di Pechino, perché poi sarebbe altrettanto interessante vedere se dovesse dismettere quote pesanti di obbligazioni denominate in euro, che cosa andrebbe ad acquistare, ulteriore debito del tesoro americano. Sarebbe veramente affascinante, esatto, tanto con tutto quello che ha, quindi veramente un'ipotesi. Comunque questo ci dà anche modo di capire quanto effettivamente le riserve, anche da questo punto di vista, del governo cinese siano importanti, proprio anche per la tenuta dell'equilibrio dei mercati. Allora Paolo, leggevo che stamattina poi andremo a monitorare con un po' più di dettaglio i migliori e peggiori titoli di Piazza Affari. Vedo però già complessivamente una buona giornata per alcuni titoli che intanto hanno sofferto molto nelle ultime settimane, a prescindere dall'andamento dei mercati. Azimut è uno di questi, ma vedo proprio molto ben impostato stamattina il settore assicurativo per, mi sembra, notizie che arrivano dal Regno Unito. Sì, esattamente. Oggi, questa mattina, tutto il settore assicurativo europeo va molto bene, è il migliore a livello di sottoindice di comparto, guadagna oltre il 4%, e a tirare la volata sono proprio i titoli delle compagnie inglesi, da una parte per i giudizi positivi di alcuni analisti, in questo caso sono soprattutto Aviva che guadagna il 6% e Legal & General che guadagna il 5,8%, entrambi i titoli sono stati promossi dagli analisti di Nomura, che sottolineano che entrambi possono rappresentare un notevole valore per gli investitori. La migliore tuttavia è Prudential, che guadagna il 6,15%, e qui ci sono alcune indiscrezioni riportate dal Times londinese, secondo cui alcuni azionisti della compagnia, che sarebbero rappresentativi fino al 15% del capitale, hanno in programma di scrivere al presidente della società manifestando la propria contrarietà alla prevista acquisizione da parte di Prudential delle attività asiatiche della statunitense AIG per 35,5 miliardi di dollari. È un'acquisizione molto onerosa che, quando era stata annunciata, aveva fatto perdere terreno al titolo in borsa, e quindi su questa ipotesi di stop oggi il titolo guadagna. E le banche, dicevamo, ci sono state delle iniziative prese dalla Federal Reserve, di cui stamattina parla anche ampiamente il Sole 24 Ore, quindi Banca Centrale Americana, ma ci sono anche delle dichiarazioni che questa mattina pesano indubbiamente in senso positivo sul settore in tutta Europa, da parte di Joachim Almunia, che è il responsabile adesso dell'antitrust europeo, facendo il punto sul sostegno pubblico agli istituti di credito appunto europei, sostegno pubblico che naturalmente è stato tanto necessario per affrontare la crisi lo scorso anno e adesso si sta progressivamente riducendo. E Almunia ha detto: il settore finanziario in Europa, anche grazie a questo, sta cominciando a tornare a normali condizioni di mercato, quindi forse anche queste dichiarazioni pesano in positivo sul comparto, e quindi i titoli sono in riacquisto quest'oggi. Paolo, sì, potrebbe essere anche questo. Il mercato è sicuramente la cosa di cui ha più bisogno, è proprio la normalità, quindi queste dichiarazioni di Almunia sicuramente aiutano. In particolare a Piazza Affari sta guadagnando terreno Intesa San Paolo, che guadagna il 4,3%, ma anche Unicredit guadagna oltre il 3%, e in generale tutto il settore, non solo a Milano ma anche in Europa, il sottoindice di comparto guadagna oltre il 2%. A Piazza Affari comunque meglio delle banche, come dicevamo prima, lo fa un'assicurazione, in particolare le generali, che sono tra i migliori titoli in assoluto, guadagna il 4,6%, ma come dicevi tu anche Azimut, che in questo momento è la migliore tra le blue chip, guadagna più del 5%. Azimut, peraltro, risparmio gestito, ricordiamo che oggi ha suggestioni pubbliche il rapporto trimestrale sui fondi pensione aperti relativo al primo trimestre. Azimut non credo che recuperi sulle prospettive di questo rapporto, ma è banalmente un titolo che davvero ha sofferto moltissimo dall'inizio dell'anno, a prescindere dalle condizioni di mercato, in certe circostanze anche molto penalizzato dai giudizi degli analisti, e oggi appunto sembra invece vivere questa giornata di recupero piuttosto importante. Un accordo siglato in Russia invece per Fiat fa brillare il titolo del lingotto, più 4%. Paolo? Sì, Fiat, ricordiamo che anche se aveva perso abbastanza terreno con gli ultimi tracolli della borsa, oggi è tra i titoli più premiati, guadagna il 4,2% a 8,68 euro. Per quanto riguarda la società, da una parte su tutto il settore stamattina ci sono stati i dati, anzi nella tarda serata di ieri, i dati dell'ACEA, cioè l'Associazione dei Costruttori Europei, sulle vendite di veicoli commerciali leggeri, che hanno visto un incremento a livello europeo. E poi bisogna dire che su Fiat oggi è stato annunciato l'avvio meglio della produzione proprio nello stabilimento russo, della joint venture con un costruttore russo, tra un costruttore russo e CNH, che è la controllata statunitense di Fiat, che produce proprio macchine in movimento terra. Infatti, Case New Holland, sì. Esattamente. Quindi anche questo annuncio segna un avvio di un'altra produzione, quindi di un'ulteriore, diciamo così, espansione dell'attività del gruppo Fiat in Europa, e quindi ha contribuito a riportare il titolo sotto i riflettori. Oggi l'euro, come dicevamo in apertura, sta continuando a flirtare con la soglia di 1,23 rispetto al dollaro, anche recuperato ampiamente sullo yen. Ricordiamo che si era portato ai valori minimi dal 2001. Questo recupero dell'euro sta mettendo un pochino in soggezione, ma sono comunque quasi tutti positivi i titoli che esprimono fatturato in dollari, e quindi per esempio Luxottica, che guadagna lo 0,90%, è tra i titoli che guadagnano meno oggi. Un po' più in difficoltà Autogrill, in questo momento l'unico titolo negativo di Piazza Affari, perde però appena lo 0,28%, Bulgari più 1,51%, quindi insomma una difficoltà davvero relativa. Volevo ricordare ai nostri ascoltatori che questa mattina, visto che stiamo monitorando continuamente la riuscita o meno, ma per fortuna è un'ampia riuscita, delle aste del tesoro organizzate soprattutto nelle ultime settimane da parte del tesoro italiano, ieri sono stati ampiamente piazzati tutti i titoli messi in asta, appunto bot, semestrali e CTZ. Questa mattina c'è stata un'altra asta invece di titoli indicizzati, in questo momento non riesco a ritrovare l'agenzia, ma magari adesso appena riesco a farlo appunto vi do anche l'esito, ma è stato ampiamente piazzato anche tutto lo stock di capitale messo in asta dal tesoro, per cui eccolo qua, assegnati 1 miliardo di BTP indicizzati all'inflazione dell'area euro, durata 10 anni, ad un tasso lordo del 2%, l'offerta massima di titoli era pari ad 1,5 miliardi, sono stati richiesti BTP indicizzati per 1,7 miliardi di euro. Sempre oggi il tesoro ha assegnato BTP indicizzati durata 30 anni e anche in questo caso appunto c'è stata una buona riuscita di quest'asta. Paolo, mi rimangono 30 secondi, qualche altro caso di borsa da segnalare interessante o possiamo chiudere qui? Beh, segnaliamo brevemente Pirelli, che guadagna il 2%, ieri il numero uno Marco Tronchetti proverà, ha rassicurato il mercato sul fatto che la scissione delle attività immobiliari prosegue nonostante le condizioni dei mercati. Tra l'altro oggi, secondo alcune indiscrezioni di stampa, è stato scelto il nome che assumerà Pirelli Re dopo lo scorpo, sarà Prelios, e quindi anche questa novità insomma contribuisce forse a mettere in luce anche questo titolo. Intanto prosegue il rialzo di Piazza Affari, FTSE MIB più 2,63%. Paolo, grazie, buona giornata. Anche a voi. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Corriere, Le Sole 24 Ore. Questa piccola finestra di Salvadanaio dedicata ai mercati dopo lo speciale da Confindustria termina qui. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.